Parliamo di quello che sta accadendo negli ultimi giorni, nelle ultime ore, attorno alla vicenda di Alfredo Cospito, ma anche attorno a quello che sembra essere, almeno a giudicare da certi titoloni sulla stampa, un nuovo spauracchio anarchico. Ne parliamo con Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, che sul tema è intervenuto anche, insomma, con un post, che innanzitutto saluto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora Mario, che idea ti sei fatto di come vengono narrati questi fatti negli ultimi giorni? Ma l'idea è quella che, insomma, gli anarchici da sempre, se non fanno paura, sono sempre un ottimo capro espiatorio per qualsiasi cosa. È facile dare la colpa agli anarchici perché in qualche modo sono anche l'unico soggetto politico attivo che, non riconoscendo in alcun modo alcuna forma di autorità, non negano nemmeno, ecco, la paternità di certe azioni e di certe cose che accadono. Quindi da dar loro la colpa in qualche modo è molto facile, è molto utile. Il governo si sentirà autorizzato a fare qualsiasi cosa. Parliamo sempre appunto di un governo che ha messo un reato di sei anni dopo una festa, no? Il reato di rave. Quindi figuriamoci cosa può succedere nei confronti degli anarchici o se dovesse arrivare qualche altra azione dopo quelle degli ultimi giorni, che per carità sono assolutamente deplorevoli, ma parliamo di qualche scritta a un consolato a Barcellona, un'auto data alle fiamme, qualche parapiglia a Trastevere, peraltro in situazioni ancora tutte da chiarire, niente, diciamo, di bombe di dinamite, attentati dinamitardi o cose veramente gravi o attentati veramente paurosi, che peraltro in questo paese abbiamo visto a più riprese in passato. C'è la sensazione che ci sia la volontà di costruire un nemico da poi mandare in pasto all'opinione pubblica? Questa sensazione purtroppo, quando si parla degli anarchici, è sempre presente. Dai tempi di Piazza Fontana, che ricordiamo all'inizio fu accollata completamente agli anarchici come azione, ma anche in passato, in tante altre situazioni. Quindi diciamo è uno spauracchio molto semplice da agitare, è un grande classico italiano in qualche modo, e non solo, ma ecco. Quindi dopo anni di sostanziale assenza dalle scene, perché erano 10 anni e non sentiva più parlare degli anarchici, non se ne sentiva parlare così tanto in maniera così preoccupata, sembra essere tornato questo spettro. Cioè, lo stesso Alfredo Cospito, ripetiamo, attualmente sta scontando la condanna per dei fatti avvenuti nel 2006, quindi 17 anni fa, no? Le bombe carta di Fossano, in provincia di Cuneo, davanti alla caserma dei Carabinieri, erano del giugno 2006. E quindi adesso invece si torna a parlarne con grande preoccupazione, titoli di giornali, interventi del governo, della maggioranza, tutti quanti che si dichiarano molto molto preoccupati da questi pericolosi terroristi. Ma ecco, io non ho l'impressione di vivere in un paese terrorizzato dagli anarchici, ecco. Vorrei fare una riflessione, prendendo spunto appunto da cose che hai anche scritto, sul nostro ruolo, quello di giornalisti, perché spesso l'appiglio sono i rapporti dei servizi segreti che individuano il rischio appunto insurrezionalista degli anarchici, però questa è una costante oramai di tutti i rapporti. Ma sì, tutti i rapporti delle varie autorità investigative italiane, dei servizi, anche di fondazioni che si occupano di sicurezza, di difesa e di intelligence, hanno sempre capitoli sull'insurrezionalismo, ma ormai da anni, da 20 anni. Se ne parla, e in qualche modo peraltro io sono convintissimo che, visto anche quanto è ristretto quel mondo, i nostri apparati di sicurezza sappiano esattamente quali siano le frange più estreme dei gruppi anarchici per nomi e cognomi. Quindi non è che è un pericolo anonimo e tremendo, non è Al-Qaeda che non si sa bene, è una cosa molto diversa, non è una novità, cioè di novità grandi non se ne vedono. E ripeto, poi noi come giornalisti dovremmo essere sempre in qualche modo abituati a verificarle le notizie in qualche modo, cioè non è che basta la velina di una questura o di un'autorità investigativa per fare un titolo, si dovrebbero sentire anche gli avvocati coinvolti nei processi, che sono peraltro tanti processi contro gli anarchici, ma anche leggere le sentenze, e quindi leggere che come dei collegi giudicanti o dei giudici monocratici in ogni caso abbiano detto che la maggior parte delle volte la gravità delle accuse con cui questi anarchici entrano in aula vengono smontate in sede processuale, dove l'associazione sovversiva decade, dove devastazione e saccheggio diventa danneggiamento semplice. Lo stesso Alfredo Cospito, lui non fu condannato per strage politica, questo processo è ancora in corso, il reato è stato riqualificato dalla Cassazione, perché la condanna che ha avuto per i fatti di Costano era strage comune. Strage è un reato di pericolo, quindi non esiste la tentata strage, che sia morto o non morto nessuno, ferito o non ferito nessuno, il reato è sempre strage. Però fu condannato per quello, mentre il reato di strage politica, devastazione, saccheggio e strage si chiama, è penso il reato più grave del nostro codice penale, non è stato mai dato per stragi vere e proprie, per Capaci, Piazza Fontana, la stazione di Bologna, in questo reato non è mai apparso, viene accollato a Cospito. Sulla base di una riqualificazione della Cassazione, di cui adesso si sta discutendo in Corte d'Appello a Torino, con un rimando alla Corte Costituzionale che dovrà chiarire appunto alcuni dettagli di questo reato. Sembra tutto abbastanza assurdo, perché non c'è una recrudescenza in società dell'anarchismo, ecco, cioè, sono più o meno le stesse persone da sempre, credo, e peraltro i nostri apparati di sicurezza lo sanno, nei rapporti, molti dei quali sono pubblici e si trovano facilmente, tutto quello che riguarda il mondo cosiddetto anarco-insurrezionalista è noto, non si tratta, ecco, di un pericolo ignoto, anonimo e tremendo che chissà da dove arriva, si sa benissimo quasi tutto. A proposito di anarchici, e nello specifico a proposito di Alfredo Cospito, ritorno a una cosa che hai detto all'inizio di questa chiacchierata, cioè il rifiuto da parte di questo movimento delle gerarchie, che è anche quello che ha provato a sottolineare Flavio Rossi Albertini, l'avvocato di Cospito, quando gli è stato comminato il 41 bis, che è un regime pensato per evitare comunicazioni con l'esterno, perché il presunto capo potrebbe poi impartire ordini. Ecco, questo è un elemento che forse nel dibattito pubblico non viene preso in considerazione, il fatto che Cospito sia o meno il leader, il capo di un movimento. Certo, cioè sì, dire capo degli anarchici è come dire, non lo so, il re dei repubblicani, il presidente dei monarchici, cioè è una contraddizione in termini. Lui l'ha anche detto quando ha reso qualche dichiarazione spontanea in qualche processo, cioè, io non è che sono il capo di tutte le cose anarchiche che avvengono nel mondo. E peraltro, per stessa ammissione degli stessi inquirenti, perché in molti rapporti c'è scritto, la cosiddetta federazione anarchica informale si basa proprio sull'informalismo, cioè sul fatto che chi viene accusato di farne parte spesso nemmeno si conosce tra di loro, cioè gli esponenti non si conoscono a volte tra di loro, e si basa tutto appunto su un po' una spontaneità delle azioni. Molto difficile vederci trovarci reati associativi in mezzo, ed è molto difficile sostenere che Cospito sia il capo degli anarchici, che gli anarchici abbiano una struttura come quella di Cosa Nostra, che da dentro il carcere magari fa arrivare degli ordini fuori, e per questo fu introdotto nel 92 il 41 bis, per evitare queste comunicazioni tra i boss e le cosche. È una situazione in tutto e per tutto diversa, che non c'entra nulla, ecco. E Rossi Albertini, che lo sottolinea ogni volta, ha ragione, ma in qualche modo predica nel deserto, perché mi sembra che non gli venga dato grande ascolto, e anzi le azioni degli ultimi giorni vengono usate a livello di dibattito pubblico per dimostrare che in realtà Cospito è un pericolo sociale, che dalla sua presenza, la sua semplice esistenza in vita sia da spinta per gruppi anarchici in giro per l'Europa e per il mondo a fare le loro azioni. Ma mi sembra anche lì un parere, una posizione assolutamente fuori dalla realtà, assolutamente sproporzionata. Proprio su questo volevo farti un'ultima domanda. Appunto, Piantedosi ha detto: non faremo patti con gli anarchici, quindi insomma quello che sta accadendo può essere utilizzato dalla politica come un pretesto anche nei confronti delle sorti di Cospito? Assolutamente, è un po' il ritorno della linea della fermezza, ma storicamente, anche quando in Italia c'era il terrorismo vero, la linea della fermezza ha prodotto solo tragedie, da Aldo Moro in poi, ecco. Quindi anche, secondo me, ottusità politica in qualche modo, e la cosa triste è che se mentre c'era la linea della fermezza in epoca di Brigate Rosse esistevano forze politiche, personaggi politici che si opponevano e che dicevano qualcosa, in questo momento la situazione mi sembra molto diversa, ecco. Non c'è nemmeno quel clima di opinione pubblica che difende lo Stato di diritto, perché qui non si tratta di difendere gli anarchici, che manco vogliono essere difesi, ma si tratta di difendere dei principi che sono i principi dello Stato di diritto: la proporzionalità della pena, il non accanirsi sulle persone, il salvare la vita a una persona che sta morendo in carcere. Ed è veramente tutto qui il discorso. Io ti ringrazio. Grazie a te, grazie a voi.